Fanobile, un programma di Radio Spore. Era una notte fredda e nebbiosa quando l'addetto al carico e scarico merci decise di fare un salto al Megastore, il minuscolo negozio di dischi sotto i portici. Mentre si addentrava tra gli scaffali del negozio, notò qualcosa di strano. C'era una botola nascosta, una stanza segreta piena di polvere, e lì, in un angolo, una pila di musicassette, vecchie, polverose, ammuffite e misteriosamente classificate. L'addetto al carico-scarico le sfiorò e immediatamente cominciò a sentire una strana sensazione. Le spore che avevano attaccato le musicassette gli stavano trasmettendo una serie di poteri sonici e capacità cyberpunk, trasformandolo in un DJ radiofonico mutato. Da quel momento in poi, ogni volta che inserisce nel registratore una musicassetta ammuffita, egli è dotato per tutta la durata del nastro di fenomenali superpoteri, tra cui hacking mentale, sintonizzazione perfetta, trasmissione rave telepatica, mixaggio immateriale, capacità radiopirocinetiche, DJing neuronale. Grazie a Sonic Belligeranza Megastore, habitat per tutti Sonic aficionados, e il professor Giampiero Cane, critico musicale e scrittore. In questo episodio di Muffanobile abbiamo una curiosa cassettina TDK colore grigio, Normal Bias 120 Micro S e QD 90, etichetta bianca e copertina bianca. Si tratta di una curiosa copertina ritagliata a mano, Duke Ellington. La dicitura è semplicemente lato 1 anni 30, lato 2 anni 40. È una curiosissima nota sempre in copertina, scritta a mano a penna: individuare quanto possibile di titoli, date, musicisti e notizie varie underlined. Sul lato posteriore la destinazione per Giangareggi, Dams. Si tratta quindi di una cassettina di cui abbiamo poche notizie riguardo a quello che contiene, ed evidentemente doveva essere classificata e registrata per essere analizzata. Duke Ellington ha bisogno di poche presentazioni. Nato nel 1899 a Washington DC, prolificissimo compositore, pianista e conduttore di orchestra jazz, è stato un'icona del genere, ha dominato la scena per oltre 5 decenni e ha lasciato un'impronta indelebile nella storia della musica del XX secolo. Interessante riflettere su dove era Duke Ellington negli anni in cui registrava i pezzi incisi in questa musicassetta, gli anni 30 e gli anni 40. Viveva uno dei periodi più interessanti della sua vita durante gli anni 30 e 40. Infatti con la sua orchestra si esibiva regolarmente al Cotton Club di Harlem di New York, locale famosissimo per la sua musica jazz, è stato uno dei punti di incontro delle più grandi star del genere nell'epoca. Nonostante Duke Ellington fosse una delle principali attrazioni del locale, a causa delle vigenti discriminazioni razziali degli Stati Uniti dell'epoca, non era autorizzato a entrare nel club attraverso la porta principale. Questo è un aneddoto famoso che era invece riservato ai suoi clienti di colore bianco, di pelle. E lui, come il personale, entravano da un lato dalla porta laterale. E andiamo a sentire allora questa cassettina misteriosa, Duke Ellington, lato 1, anni 30, lato 2, anni 40. Thank you. Thank you. the room. It's the room. The good book teaching ain't been reaching you. Now sisters just struck the eye, all dressed to kill with style. You wink your eye and smile, is that religion? One thing I do despise, you catch my deacon's eyes, and that's where the weakness lies, is that religion? You see your parson's vexed, and you got him so perplexed that his mind ain't on his text. Now tell me, is that religion? There's some cheating gonna be did, and you all done took off the lid, trying to get your parson to skid, is that religion? Thank you. Thank you.

dead swing. It don't mean a thing. All you gotta do is swing. Makes no difference if it's sweet or hot. Give that rhythm everything you got. Don't mean a thing if it ain't got that swing. Love a man, oh, where can you be? old and I'm so all alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, oh, where can you be? The thrill of romance could be like a heavenly dream. I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears, a hugging and a kissing. Oh, what we've been missing, love a man, oh, where can you be? Thank you.

This waiting's aggravating. Yes, I know, I got to know, but your heart keeps debating. Pretty woman, you've got me in a spell. Lots of style, knows how to smile, makes is what it takes to make you linger a while. Pretty woman, you've got me in a spin. Thank you.